avanti. Chi tocca? Marco Condor. Riprenditela, e poi fai girare per Claudio che è in parcheggio. Va bene. Aspettate un po' che mi devo calare le stazionarie, appena. Che come è piovuto sono salite, maledizione l'antenna. Ecco, 1-1, va. Sì, come piove anche stasera, sono salita appena. Questa antenna è bastarda sempre per quel motivo. Sapevi, a tutti fa così con l'antenna lì. Se ti ha detto di puniti la mantova è per qualche motivo, no? La vuoi la mia che te la vendo? Qua non si può mettere, troppo pesante, troppi radiali. C'ho l'antenna del vicino attaccata al mio palo. Ma vendono anche antenne senza radiali, che imbattono bene, costano qualcosa in più, però almeno hai un'antenna come ti si tocca, 5 ottavi. Eia, come la IMAX 2000, sai quante ce ne sono spezzate di quelle? Beh. Nonostante la leggendaria resistenza al vento, di IMAX 2000 ce ne sono spezzate varie, non so perché, dovrebbe essere molto più resistente di una in alluminio, fibra di vetro, boh. Come vedi la roba americana è tutta americanata, però poi alla fine sono sempre migliori da Mantova e simili, che siano della Sigma, che siano della Sirio, che siano della LEM, come le vuoi chiamare, tipo la Super LEM, te la ricordi la Super LEM, è tipo Mantova 1. Come me la ricordo? La vendono ancora la Super LEM? Ah, la vendono ancora, non lo sapevo, credo fosse una cosa degli anni, c'era nella fine degli anni 80, inizi 90, addirittura c'è ancora. La Mantova allora, la Mantova lo stesso così, io ho preso la 5, però è stata modificata la mia, i radiali prima erano in vetro resina, adesso sono in alluminio pieno, con i tiranti di lenza, per tenere bene. Eia. Guarda, io potrei arrivare ad avere, aspetta, ecco qua, potrei arrivare ad avere la CTE, come si chiama, la Energy 5 ottavi, quella rispetto alle Mantova, è molto più leggera, stiamo parlando di circa 2,5 kg, e 5 ottavi, a 3 radiali, quindi quei 3 radiali mi permetterebbero di metterli in una posizione tale da non toccare l'antenna del vicino, capito? Ma tu la metti più alta, scusa, che problemi c'è? Che antenna c'ha il vicino? Un conto è mettere con il palo di 6 metri una Ringo senza tiranti, questa è alta 4 metri come tu sai, no? 4,10. E una cosa è mettere un'antenna a 6,5 metri, più pesante sul palo di 6. Io lo metterei con 4 metri di palo più la 5 ottavi della Energy. Allora stiamo ragionando già di più. Sì, ma non è che cambi molto, capito, da quella che c'è la Energy. Perché il materiale è sempre, l'Energy è buona come antenna, spara, tutto quanto. Però è un materiale molto fino e fa lo stesso difetto, vola più della tua. Sì, quello è anche vero, sono antenne più economiche, è una 5 ottavi un po' più fina, la mantova è più grossa, ha uno spessore maggiore, però per me, penso, rispetto a questa sarebbe già un mostro, sarebbe già molto migliore. Costa poco, costa 70 euro, alla DVC vai, 70 euro, se la trovi l'offerta la paghi anche 60 euro, e va più che bene, dai. Io mi accontento, sono uno di bocca buona. Vabbè. Io la spesa la faccio una volta per tutte. Non è che sto a comprare 1000 antenne e poi ritorno sempre a quella lì. Perché io sono sicuro che se tu compri quella, poi vedi, ma magari la mantova c'è che te ne innamori per come è fatta, la struttura e tutto qua. Se ti metti un palo buono, scusa, che problema c'è? Qualche tirante? Lo so, però già, non lo voglio tiranti qua, non voglio approfittare della bontà del nostro beneamato vicino. Se fossimo stati sulla casa vecchia, la casa casa di nonno, praticamente abbiamo il terrazzo di proprietà, non tetto, è terrazzo come il terrazzo di qua. Lui ha premesso tutto quello che volevo, tiranti, pali lunghi e la mantova, ma qua mi accontento, poi io già non sono tanto esigente, la mantova sarà buona, ma la NG se la cava, dai. Sì, se la cava come segnali va bene, però il materiale è più leggero, capito? Se ti tira il vento e cose, è capace che te la piega, e poi c'è quel problema della pioggia, quando piove vanno in tizio con le antenne. La Sirio 2008, guarda, io ce le ho tutte le antenne, c'ho la Mantova, c'ho la Sirio 2008 e c'ho la Energy, quelle, cioè c'ho la Ringo, di Ringo non hai un caraccio, quindi se vuoi quella, la cosa, la verità, aspetta un attimo, la verità è che le due antenne si compensano l'una con l'altra, cioè se dalle due antenne ne fai una buona e una cagata, e ti spiego perché, perché lo stile della Sirio 2008 è una potente, cioè una cagata, perché è molto fine, però c'ha la carica che è coperta da quella campana di plastica che è ultima, e allo stesso tempo c'è i radiali a vitatura, al contrario della Mantova che ce l'ha con quel plattorello sotto a incastro, e basta un paio di piccioni pesanti e te la crepano. Al contrario invece la Mantova c'ha lo stilo centrale che è un bel grosso ed è ottimo, quindi ne prendi due e ne fai una. E dovrebbe avere anche maggiore larghezza di banda, no? Con lo stilo più grosso, più diametro, no? K di roggia, vabbè, quello sì, adesso non so se sia direttamente proporzionale, però è probabile, non me lo sono mai posto questo. Guarda, per assurdo chi ha maggiore larghezza di banda è la Ringo. Ti spiego perché, perché se la modifichi ti va bene anche come antenna per i 6 metri. Ascolta, c'era una discussione su un forum l'altro giorno, c'era questo tale di Napoli che diceva che la Mantova era un'antenna mediocre, non so perché, diceva che ci sono antenne di gran lunga migliori come la Sirio 2016, non so che tipo di metro di paragone abbia usato, secondo lui quella era più valida della Mantova, parlava di materiali e di rifiniture credo, e forse anche di resani. Guarda, io sto uscendo con una Mantova, con una Sirio 2008, cioè è lo stesso modello della 2016 con 8 radiali in meno, cioè ne ha solamente 8 i radiali, tu immaginati che ce ne sono montati 3 o 4, che è messa sopra un coso, come si dice, un terrazzino. Allora, la Mantova ha fatto la storia della CB, della 27, perché la copiata vincente erano la 48 e la Mantova, io adesso ho la Turbo, però la Mantova 5, che era quella, era la Mantova 5 se non sbaglio, che aveva 5 radiali, poi c'era la Mantova 1 che ne aveva 4, sì. Allora la Mantova 1 e la 48 hanno fatto la storia della CB, che aveva questi due, aveva una stazione con i controfiocchi agli inizi. Però ti dico la verità, ha ragione, in effetti è molto più performante, ma perché di più recente costruzione la Sirio 2008, cioè la Sirio 2016 rispetto alla Mantova Turbo, adesso non so a quale Mantova si stesse riferendo. Oh, ehi. Mi serve un passaggio in banda laterale, cioè in banda laterale, in FM. Aumenta il mic perché si bassa. Bassa io. Sì, c'è la radio sorda. Sette ma. Appa, confermo. Ho aumentato la radio. Negativo. Fai vedere, così ho aumentato. Negativo, vi devo lasciare, negativo. Marco, viene la matitudine di controlli, però negativo, ci deve essere qualche problema. La radio. Oh, che è successo? Non so. Adesso è aumentato, devo andare. Ho aumentato adesso la radio. La confermo, adesso è buona. Salita da sola, Cla. E forse era come fosse un falso contatto temporaneo. No, ho capito. Questa radio vecchia. Va bene, ok, possiamo andare. Oh, Cla, com'è questa FM, come sta andando? Sono senza processore, senza. Una canonata, sì, va bene. Va bene, ok, ripassiamo in AM. Ecco qua, chi l'avrebbe mai detto che avrei avuto un apparato così? Io ero fissato con i baracchini, ma ho avuto un attimo comunque di paranoia, Ecla. Perché un attimo di paranoia? In che senso paranoia? Lo so Gianni, praticamente mi era venuto un attimo di paranoia, stavo dicendo che praticamente col Kenwood non ci facevo niente, che avevo fatto più il passo più lungo della gamba, che non mi stava piacendo tanto, non riuscivo a farmelo piacere. E poi è passata la paranoia il giorno dopo, e cioè oggi. Non ti stufferai mai di quella radio, perlomeno io mi sono abituato e non mi stufferò mai, capito? Io non so perché, mi è venuto un attimo di, non dico sconforto, ma sembrava che stavo quasi vendendo, che ho detto già, chiedi chi la vuole, dillo anche a Claudio, e chi prima che viene ce la prende. Capito? Un flash è stato. No. Tienitela conto, perché intanto in quelle condizioni ne trovi ben poche. E poi, ti ripeto, è sempre una signora radio. Ma diciamo che adesso che c'è il mic, che c'è il microfono che va meglio, la rivaluterò ancora meglio. Con l'altro microfono qualcuno mi aveva detto che ero cupo, è presente gli omologati, no? Certi omologati tipo l'FM500S ricevono già di loro un po' cupo, no? Se in più gli dai un microfono normale della K, mi sentiva abbastanza male, cupo, capito, tutto invece sicuramente con questo andrà molto meglio. Molto meglio. Alla grande. Prova a rifare un passaggio in FM o Marco. Sono curioso di capire qual è questo falso contatto. Che me l'ha fatto già un'altra volta. Non vorrei che fosse veramente un falso contatto che non mi viene bannuda. Prova. Aspetta Claudio, ho sbagliato una cosa io adesso. Allora, adesso sono senza processore, ho dimenticato di metterlo a posto, senza processore, e adesso col processore, vedi, anche ho sbagliato. No, adesso già aumenta, vedi, alla grande. Vai in FM un attimo. Eccomi, modulazione FM. Ok, radio ne ho io? Sì, fai un passaggio più lungo, vediamo. Vai a vedere, normale, cioè amplificazione, va bene così. Sì, sembra di sì. Ascolta, io naturalmente in FM devo alzare un po' il volume, e dall'FM all'AM c'è differenza, è normale, anche le baracchine lo fa. Allora, così è senza il processore in FM, così è col processore inserito, cambia qualcosa? No, non varia, stranamente non varia. Guarda, adesso lo faccio io, eh. Allora, qui sono senza processore e così sono col processore, vedi se senti la variazione? No, non varia. Non funziona in FM. Come non funziona? Gianni quando ce l'aveva inserito cambiava. Sento variazione io. Prova a fare di nuovo il passaggio staccato e attaccato, che tendo bene l'orecchio. Vabbè, così c'è il processore inserito, 1, 2, 3, e così è disinserito il processore. Cambia qualcosa? No, francamente no. No, se c'è all'ascolto Gianni, che può dire la sua, che è un po' più lontano. Attenzione Gianni. Qua non cambia niente. Cosa? No, buonasera, che qua non cambia niente, uguale, là, non funziona il processore in FM. Ma infatti io lo so, è Marco che non lo sa, io lo so, non funziona, infatti gli ho detto, guarda ci senti il vento, l'ho detto no, e gli ho detto perché non funziona in FM, capito? Funziona in FM con Marco, non funziona, solo assume il corso del 440 o 450, funziona in FM. Ok, com'è la modulazione Fabrini FM, va bene? Buonissima, è la sua classica modulazione, bella timbrica, forte, no? Inconfondibile. Ok, facciamo in M a vedere. Vediamo, qua in M com'è invece? Cambia qualcosa Fabrini? È uguale identica, perfettamente, bella pimpante, forte, compressa, di uso, la sua assoluta modulazione. Allora, già la vedo, non c'è problema. Ottimo per la truppa, avanti Marco. Fatta. Ciao Fabrizio, Fabrizio Mascherato, mi ascolti, vedi un po', sto uscendo con 40 watt, sì. Io ti ascolto, ero buono, perché c'è un problema. Vabbè dai, continuate, vi ascolto, sto cercando di fare delle cosettine qua, una penna, se no capisco in casino, va. Mi sta ascoltando, io sono di tra. Ma io ne ho approfittato mentre stavano parlando loro, ci sono fatte due regolazioni, due tarature di Smitter, c'era una variazione tra Marco e Gianni, e quindi l'ho portato alla normalità. Nel frattempo mi sono tarato anche appena il bicchierino dall'interno, capito Marco? Okay. No, comunque non toccare niente, perché stai andando alla grande tu, senza nessun problema. Ecco, ok. Mi sarebbe piaciuto ascoltarmi, registrato per esempio con un registratore digitale, no, in modo da non sentire il trascinamento dei meccanismi, perché ho registratori ne ho vari, quelli con la cassetta senti il motorino praticamente, no? Con quello digitale va molto bene. Sì, ci vorrebbe qualcuno che mi registra, tipo Gianni, un giorno gli do il registratorino, mi registra e me lo fa riascoltare, capito? Sì, vabbè, quello già si può fare tranquillamente, senza problemi. Va bene, ascoltate, io mi assento un pochino, se riesco rientro fra un po', se no vado a cena direttamente dopo. Va bene, io sono ancora un po' qua, mi sto facendo cose, se non tardate, se no spengo todos e me ne vado a Nannas. Ok, Gianni Ropirum, ci sei ancora? Sì, io ci sono. Mi assento per un po'. Non so se rientrerò dopo, vediamo un pochino, dai. Ma dai, non ti potevo rispondere poco fa, ma è confuso. È lo squelch che non funziona in AM e io lo mettevo in FM per non ascoltare i rumori, così sembrava una telefonata, ma non il processore. Il processore non funziona. Ah, ho capito, sì. È in banda laterale invece, in banda laterale il processore l'ho usato o no? Il manuale mi pare diceva di non usarlo, boh, non mi ricordo bene. In banda laterale ce lo puoi usare, se vuoi uscire più forte lo usi, non c'è problema, solo che in banda laterale ti raddoppia anche il watt, quindi non penso che ci sia bisogno. Che bene. Comunque stai facendo perfettamente Marco, complimenti. Una cosa che ha cambiato da giorno alla notte. Anda bene, Claudio, avanti, cambio. Infatti glielo ho detto, che va molto bene. Ultimo per la truppa. No, non c'è nessun problema. Sì, ti ho fatto la battuta perché lo so. In FM non funziona il processore. Capito? Lo squelch non funziona in AM, funziona in FM. Il processore non funziona in FM, funziona in AM. Poi in banda laterale, se vuoi lo usi, ma quello in banda laterale c'ha molta spinta. Io ad esempio non lo uso il processore in banda laterale quando trasmetto in 10 metri, 20 metri con questa radio, capito? Perché è troppo forte. E poi aumentano anche i watt in banda laterale. Già va bene. L'interessante è che poi si regola lui, come fare e come non fare, perché ognuno poi lo fa a modo suo. Io le l'ho detto, memorizzati la regolazione quando lo metti al massimo in machine, così almeno sai come devi metterlo. E così ha fatto. Andava. Antonio Grobbe è andato, se ne va. Al telefono era il telefono. Yes. Se canto lui lascia telefonare. Quando lo chiamano lui, tutte quelle persone che conosce lo tengono sempre al telefono. parlava della LC, in banda laterale bisogna rimanere nel range di quella linea rossa con la scritta LC che c'è sulla parte inferiore del, dello smitter, giusto? Perché se no strappa a una sola faccia. Infatti, tu se vedi che non strappa, che non supera la linea rossa per la tua modulazione, per la tua indicare in voce, lo puoi lasciare inserito il processore. Se vedi che col processore inserito esci fuori dalla linea rossa, allora lo disinserisci. Io se lo inserisco in banda laterale non sorpassa la linea rossa, sorpassa lo smitter. Va fuori scala tutto quanto. Comunque riceve bene in banda laterale. Bene, bene tutto. Riceve bene i 40 metri. Nonostante l'antenna sia mozzicone, va bene, sono contento, dai. Io te l'ho detto, quando ti ho sentito che tu stavi cercando un affare del genere, un baracchino del genere, ti ho dato subito l'input, ti ho detto prendi quello, perché lo conosco, capito? Lo conosco perfettamente, quindi con l'esperienza che ho avuto con questi tipi di radio so che cosa valgono. È inutile usare un baracchino triche ballacche, è un discorso che abbiamo già fatto e non hai prestazioni, quello c'è tutto quello che ti serve, tanto non prendi colpi, ma ne dai, hai la potenza che ti serve, non hai bisogno di triche ballacche, capito, lo siamo capiti, no? Per aumentare, per fare. Quando ti servono 5 watt ne metti 5, quando te ne servono 20 ne metti 20, quando te ne servono 50 ne metti 50, punto e basta, e fa tutto lui. Quindi io ho iniziato a usare questo tipo di radio, tutto questa che sto usando, il 430, nel 1986, capito? La comprai nuova da Mario Notari, la linea completa come ho adesso. Sono riuscito a rifarmela completa come ce l'ho adesso, ma adesso me la sono rifatta con un po' di spiccioli. Quando l'ho comprata io nuova, così come adesso, AT250, PS50, colonnina esterna, SP430, perché questa è la sua colonnina del 430, non è l'SP23, è l'SP430, e l'MC60 che era appena uscito. Non ti dico la botta, ti dico solo che la 126 della Fiat costava 1.200.000 lire. Questa linea è costata il doppio. Lo credo, appena uscite erano costose queste apparecchiature. Per esempio questo, quanto poteva costare appena uscito, proprio appena uscito? Quello io appena uscito l'ho pagato 1.700.000 lire. Solo apparato con microfono da palmo? Sì, apparato e microfono da palmo. Quando comprai la T250, che era l'accoratore di linea automatico, costava più della radio, 1.850.000. Ho capito, caspita, certo che trovarla ai prezzi attuali è un terno all'otto. Cioè si trovano, ma è buono trovare quei prezzi, tanto vedo che non sono radio abbastanza ben tenute, diciamo, non sono come i baracchini, cazzo, che li trovi carta vetrati, capito? Assolutamente. Ripeto, io per esperienza mi sono fatto, credo che per la 27 siano le migliori radio in assoluto. Quella lì, questa che ho io, tranne qualche digitale, ma anche l'8 50 sta dando grosse soddisfazioni in AM. Io ce l'ho, prima usavo quello, poi quando ho rimesso un po' in funzione questo, preferisco questo qua e quello là usarlo in banda decametrica, capito? Ok. No, beh, comunque. Ti continuo a ribadire, ti ripeto che meglio di così non si può uscire. Mentre già è tornato alla normalità, col suo sottofondo alla grande, ti ho aumentato leggermente il segnale perché è leggermente basso, evidentemente con le tarature che aveva fatto Fabrizio su questa radio non era equivalente alla mia zona. Adesso ho acceso l'altra, ho visto quanto arrivo nell'altra e ti ho riportato alla normalità. Ho controllato lo smitter, tu arrivi esattamente 9 e 18, non so se sia tirchio o se è giusto come smitter, probabilmente più giusto di altri apparati minori, diciamo. C'è l'attenuatore inserito. Perfetto, perché sì, 9 e 18 anche tu. Ah, no, ancora, cioè, non è inserito l'attenuatore, se lo inserisco arrivano 9 giù di lì. Ma tu in che zona abitavi, ricordami? In via Nizza sempre. Una volta ero in via Mameli, poi abbiamo cambiato la casa. Ma su Facebook ci sei? No, negativo. Beh, testo Facebook e altre cionfe del genere. Fa di rogio. Ti stavo dicendo, mentre qua, aspetta, qua dovresti arrivare, sì, entro le 9:20. Io come ti arrivo? Guarda che sono, aspetta. Io ho 8 watt. Aspetta che aumento poco a poco, vediamo se riesco a guadagnare qualcosa. Però un pochettino. Guarda come sono adesso. Allora, prima eri una cosa tipo 9,17, forse eri proprio un cicinino infinitesimale, qui sotto il Claudio, tipo 9,17. Adesso metti portante muta però. 9,25 è spaccato. Quanti watt? Adesso? 150 modulati. Logico digitale. Marco, allora di portante bianca sono 10, 20 modulati. Adesso te lo metto io, guarda. Da così hai detto che 9,17. Così invece quanto è? Allora, grosso modo 9,23, non è 9,25. Adesso 50 watt, anzi 40, oh, non ti tiene gradi. Lui lo metto ancora quello di Antonio, attenzione però che io sono a progettazione orizzontale, non sono in verticale. Se invece cambia l'antenna, allora aumenterebbe anche il segnale perché la polarizzazione cambia. Ecco qua, qui sono 50 watt, 100 modulati. Conta che io ne ho già 40, arrivano da 18 per via dell'antenna, mozzicone e forse anche per la polarizzazione, dai. Aspetta che riabbasso. Ecco qua, 20 watt. No, non voglio forzare con questa antenna, no. Non mi interessa niente, giusto per fare due chiacchiere già va bene. No, ma il tuo segnale più o meno corrisponde a quello che ti ha dato Antonio. Quanto gli hai dato Antonio? E 20, tu c'hai 40. Adesso sono sceso, io sono forse al di sotto dei 5 watt. Non mi farei spaventare, però se il tuo segnale quello deve essere 40, da mi scendi a più 20 mi fai spaventare, sembra che mi sia diventata la radio sorda. Tu qua sei 9,40 il tuo segnale, adesso sei 9,20, già me ne sono accorto che hai calato, la potenza a 5 watt, e come la metto io a te? Ecco qua, 3,5 watt, 3 watt. Sì, sembra 20 a 40 modulati, mi sono messo a 10, che è l'ideale. Sì, ma ti ripeto, siamo macchine da voi, ci sono tutte cagate per fare i barrosi, perché realmente per preservare l'apparato basterebbe modulare in FM, e si modulerebbe molto meglio, con senza sfotte i finali del corso andato che ti appiattisce la modulazione e quindi diventano quasi tutti uguali, capito? Non è via del fermento, aspetta che me ne metto 10 watt come a te. Ecco qua, 10 watt. Sì, ma infatti hai pienamente ragione, fare le occhiate così, giusto per... Non c'è bisogno di... Un sondaggino invece la televisione. Non c'è bisogno di forzare la radio. Se poi c'è qualcuno fuori che magari ti sente basso, allora aumenti leggermente la potenza. Ma la tua va benissimo così. Adesso sei 30, poi si chiude 10 watt, magari si mette a 20 watt, 30 watt, e ne vai a 40. Va bene Marco, ultimo per la truppa. D'accordo. Questo in watt, in AM, quanto si può portare minimo? Quello lì, quell'antenna quanto li porto io. Quello lì quando ti ho detto carro armato, lo chiamano il carro armato per questo motivo. Perché è assurdo, infatti tu guarda, stupidamente la Kenwood non ha continuato a farlo perché sicuramente è diventato obsoleto, però è il più ricercato fra le radio, il 140TS. Ha un gemello che ha la scheda di 50 MHz, che è il 680. Quello lì si può tirare a livello di... gli puoi aprire leggermente la... come si dice? La larghezza di banda, lo puoi spingere di più. Comunque il migliore dei Kenwood per quanto riguarda la modulazione in AM, ed è quello che spinge di più, soprattutto se hai quello con i... con i finali MOSFET che c'era Luca e che se l'ha venduto, quella era davvero un'occasione, vedi? Ripeto, il 140 di per sé è una potenza, ma quello lì era ancora meglio. Poi c'era Luca, erano io, l'avevo messo io il finale. Io lo so, quella era una bomba, era davvero una bomba. Comunque guarda, il 140 ha picchi di modulazione effettivi che arrivano a 150 watt senza nessun problema, al contrario delle altre radio, perché queste qua sono fatte per la banda laterale, per fare un certo tipo di attività radio. Quelle lì lo chiamano il baracchinone proprio per questo, perché l'inizio, diciamo, per poter iniziare a comprare, ad avere una radio che va bene per fare attività radiomatoriale, però è una potenza, se lo tratti bene, guarda, ti dura una vita e alla fine quando lo vendi ti piange il cuore. Io alludevo però al minimo, mettendo quanto si può regolare al minimo con lo slider. Al minimo quanto si può regolare, ma perché cosa ti serve metterlo al minimo? Perché in città è inutile avere 40 watt, ma l'altro giorno lo stavo usando a 20 per esempio, quando è caldo è 20 watt, non so se si possa abbassare di più, è inutile avere 40, tanto siamo un tiro di balla. Sì, ma infatti guarda che più scalda, poi devi stare attento a tenerlo d'occhio poi il wattmetro, perché più scalda quello lì e più aumenta la potenza, e quindi alla fine è impiccato, cioè impiccato nel senso dare il massimo dei watt, anche se magari è regolata, non dico al minimo, ma quasi. Più scalda e più pompa. Eia, no, ma dico, quanto è il minimo? 10 watt che può dare o 5? Credo 5, vero? 5 watt è già... fai lavorare male il microprocessore, tieni conto che quello è un due conversioni Marco, quindi il modulatore viene citato dal microprocessore che automaticamente comanda tua potenza, se tu lo tieni basso lo fai lavorare male, massimo dalle 10 watt di portante multa, capito? 10 watt come ce l'ho io, come ce l'ha Antonio, 10 watt di portante multa sono più che sufficienti. Dopodiché hai picchi di modulazione che vanno a 20-30 watt sul parlato, stai già andando alla grande. Io 10 watt sulla T250, che è lo strumento di linea della Kenwood, quindi più preciso di quello non c'è, ed è regolato proprio a portante bianca, muta, senza parlare, 10 watt. Sul parlato sto trasmettendo intorno ai 25-30 watt. Sul parlato, però già la radio non forza perché è a 10 watt di portante, quindi non consiglio almeno 10 watt dagli di più contenuta. Almeno per l'uso urbano, come si vuol dire. Sì, volevo provare, adesso provo, dai, continuate un attimo, cerco di ottenere, che qua lo sposto di un millimetro e parte a raggio, no? Scende di molto. Perché? Che ti devi abituare a non prenderlo, lo sbrider con due dita, lo devi toccare a colpettini col pastrello del dito, appena appena, proprio è un giochetto da ragazzi, appena appena, non devi andare in un altro canale, fallo qua, mentre stai parlando tocchi appena appena col pastrello, ma proprio leggero leggero, capito? E ti porti la potenza a 10 watt, così impari. Cosa migliore è non toccarlo, da voi che la lasci in una posizione, prendi il polpastrello e gratti l'orecchio. Yeah. Adesso sono sceso di 5 watt, 35 per esempio. Io praticamente uso il polpastrello, poi uso l'unghia, di lato la metto in modo che tocchi di lato il cursore a farlo scendere piano piano. Col polpastrello, con l'unghia raschi il frontalino e fai il fosso bianco. E qua c'è appena appena il fosso. Allora vediamo. 25 watt, adesso scende ancora. Fossi non ce n'erano ancora radio, quindi qualcuno gliel'ha fatto il fosso. Sul colore diciamo, appena appena c'è. Allora, no, troppo pochi, siamo a 9 watt, appena appena di più è perfetto. Se lo fai così, quello che è 9 sono 8, 10. Il picco di modulazione sul parlato sale? Allora, sullo smitter, caspita, ora, sale parecchio, parecchio. E così deve essere, come questo, come quello di Antonio, come tutti. Ho detto io, l'importante muta, ho 10 watt. E vado a toccare la scala dei 50 sulla T250, che è l'osmetro, watt, metro accordatore con un fattore di antenna di linea. Quindi più preciso di quello non ce ne immagina che il picco di modulazione che ho. E così deve essere, capito? Soprattutto quella che è stata già preparata per il combattimento. Il picco di modulazione deve essere così, va bene? Basta, vediamo un po'. E 10 watt siamo, dai. 80 minuti e 10 watt. Oh, la prova. Sale parecchio, sale anche più di prima la scala. Sono contento, va benissimo. Infatti qua sì, 9,15 con picchi a 9,20. E lei il segnale che io do sempre con quel tipo di radio. Anche Antonio. Antonio nonostante abbia 10 watt e il suo picco di modulazione è sempre di 5, da 25 a 30, perché a 10 watt. Se lo mette come era prima, Antonio arriva a 9,40 qua, con picchi anche a 9,45. Capito? Siamo uno di fronte all'altro. Quindi dovreste essere parecchio vicini, non so esattamente Antonio dove sia, però sicuramente otticamente le antenne ci vedranno. Caparogger, io abito in largo Budapest, adesso non mi ricordo che numero sia, se 3 o 9, non c'è problema. Che problema c'è adesso? Non lo siamo tutti, noi siamo su cuoresbetta.com, quindi siamo uno di fronte all'altro, io da casa mia, da su, vedo la casa di Antonio e Antonio vede la casa mia dal terrazzo. Siamo uno di fronte all'altro proprio. Lui in linea, a casa mia che avevi, è uscita di via l'Italia, io sono proprio sopra davanti a lui. Fra un po' parlate a voce praticamente. No, col barattolo. Il barattolo col filo e la membrana. Esatto, raccorda, sai che il cordino doveva essere di spago, però se ci passavi la cera funzionava ancora meglio. Ma che prima eravamo vicini a te. Sì, ma è perché io non mi sono spostato di molto, dai. Però con la casa risultava, via Rockefeller risultava un attimino più in basso, perché era via Rockefeller dalla parte bassa, quindi c'avevo il palazzo di via d'Italia un attimino che mi chiudeva, e soprattutto anche quello del tabacchino, che era più alto, mi creava un po' di problemi. Avevo aperto sul tutto supporto Torres, ma qua è a 360 gradi. No, ma sia da via d'Italia che vabbè, da via. Il segnale più alto è quello che c'hai adesso, anche da via di Astronauti arrivavi un bel forte qua, lo stesso eravamo uno di fronte all'altro. 5 pieno, mentre adesso si è calato a 17-18 con picchi a 20 buoni, quindi vai benissimo, alla grande, non toccese, non toccese. Guerriello, ecco, lui, quanti matti hai tu? Quanti matti hai? 10, Fabrizio quanto l'ha portato, non mi ricordo. Luca, ad esempio, con questa radio qua è 9,20, 9,20 in pieno, e ce l'ho davanti lo stesso, 9+20, ottimo segnale, lei sarà a 10, guarda anche tu. Più o meno 10, non mi ricordo quanto l'ha portato. Perché c'è quel wattmetro, quello lato franco, ma è rotto, non segna bene. Oh, no, va bene, va bene. Ottimo per la truppa. Avete tutti gli ultimi segnali. Va benissimo. Che si è fatta? 11:15. Ecco. Ui, ui, ui. E tu devi lavorare con lui, no? Io? Ehi. Sto lavorando qua. Se facciamo i lavoretti, no? Se mi esce qualcosa che computer lo faccio. Qualche telefonino. Un cazzo, bravo, è nulla. Computer, telefonini, portafogli. Non lo sento il fischio. Cosa? Non lo sento il fischio. Sto facendo gli scherzi, questo lo dico perché sta ascoltando in frequenza. Luca è un bel bravo oggi usando computer. Poi le trasforma, tu immaginati che da due riesce a farne uno. Luca ha studiato con capo di Bugnetta. Oh, guarda, infatti gli stavo dicendo, secondo me si devono aprire lui e Pomponi, si dovrebbero aprire un laboratorio insieme, un laboratorio di analisi però. Cazzo di analisi, è sangue. Le urine. Guarda, io dico una cosa, io da quando il mio computer mi ha fatto i settacci Luca non l'ho mai toccato e ha sempre funzionato bene. Aspettata, poi l'ho ripiazzata, ma ormai non non si va più. Allora Claudio ha fatto anche la moto, ha dato portano nuovo, la verità, no, sono sincero, io su queste cose non posso negarle, perché sei un coglione, veramente. Questo ho anche detto a tu. Adesso vuoi fare me devo sapere, io sono venuto un attimino a rilassarmi, mi devo sopportare questa dichiarazione che vi state facendo l'uno con l'altro. La perfetti capire che non cioè non. Siamo in giù buca dolci comunque, no, poi alla fine abbiamo risolto, ecco. Siamo le mani alla candela, questi ce ne sono le cazzate. Vabbè, dai, chi c'è rimasto? Qui c'è Gianni, poi Marcolino, chi c'è Marcolino? Cazzo Luca. Cazzo mio radio Marcolino, ti sei attrezzato, eh? E abbiamo fatto delle regolazioni, messo il microfono buono, microfono MC60, e non meglio di prima, molto meglio. È positivo, dai. Posso dire che vai benissimo adesso, Prima andavi bene, però adesso vai molto molto meglio. Bella radio, avanti Gianni. Gianni c'è il rombino. 10 watt tondi, 10 watt tondi spaccati. Vedete un po', magari ha guadagnato anche in modulazione. Bella radio. Ma c'è il buio, a parte che l'ha tenuta bene, nuova, bella lucida. Infatti il tipo che la sarà comprata è rimasto meravigliato. E ha detto, minchia quanto è nuova questa radio. Poi usciva benissimo, quella era da fare, mi sono pentito veramente, pentito, però purtroppo. Pazienza, quando ho portato via da qua è come che sta volando il mio cuore. Chi te l'ha fatta quella radio? Quella era la tua. Sì, sì, grazie tanto, ma Gioventù 2, mamma mia, già. Ma col conto io ho avuto 13, 14, 15, 16, con quello di Luca 140. 12, 440, 6, 430 e 4, 680, tutti venduti, non c'è mai stato uno che me l'abbia riportato indietro e che mi abbia detto non te la compro perché è graffiata. Mi ha venduto la radio a Gianni, tanto ce ne vuole, l'hai visto come quella radio? Eia, ascolta, ma adesso te ne sono rimaste di 140 in stazione? No, l'ultimo era quello lì. L'ultimo era quello, perché ne avevo due, uno era a Luca e uno era quello lì. Poi l'ho passato a Giampaolo, praticamente l'ho comprato da Gianni, l'ho preso da Gianni. Poi l'ho passato a Giampaolo l'aveva dato a Gianni. Capito? Nulla, io adesso ho solo questa linea del 430 completa, proprio completa, la sua linea. E basta, poi tutte le altre a camminare. Il tempo ne ho 4, 850, 780, 430 e 271. Dico ne ho 3. 7004. 75H e poi l'altro testa è proprio al veicolare e poi c'ho due Iaesu e vabbè, penso di andare tutte. Eppure io mi sono ritenuto una di queste anche in stazione, se hai posto almeno per avere un esemplare da conservare per il futuro e per i posteri anche. Sono stufo di quella radio, quella io l'ho fatta a pezzi e da lui ne abbiamo fatto una con Fabrizio, quindi mi c'era anche Antonio, di cui un'altra ce l'abbiamo ancora come pezzi di ricambio, perciò mi sono stufato, 140 per me è stato uno delle prime radio che ho avuto, capito, assieme al 430, 440 non parliamo, 440 l'ultimo l'ho dato a Franco io per il fuoco. Tutto quello è bellissimo, quello c'è fino alla MOSFET, quello c'è 200 watt, come quello c'era Luca, quello di Luca quando si levava la potenza non c'era più nessuno, non è fortissimo quello radio, fortissimo. Questa fino alla MOSFET non ne ha, però 120-130 watt li fa in AM, proprio pieni pieni. 150 modulati, mi fa mandare laterale, 100 in FM, quindi va bene. 430 superiore a 140, Marco, sei molto molto corretto, perché c'è, intanto questo c'ha tutti i filtri, c'ha dei filtri particolari, meglio del 440 bit, come ricevitore superiore anche al 440, come trasmettitore sono uguali. Però questo è preconversione, quello che è in due conversioni, capito? Altrimenti non avrei tenuto la linea 140. Ho dovuto tenere questa perché la uso anche in banda laterale e posso stringere un pochino più la banda perché c'è il filtro. Mentre il 140 filtro non ha. Cosa se lo sta vendendo, Franco? Lui ci ha mai telefonato se lo ricordo, no, no. Assolutamente, io come radio sono arrivato, se li ho fatte fuori proprio perché me ne volevo tenere una solo per spaziare in AM e gli altri per fare attività materiali, io con 7.400, con 850, con 780 sono a cavallo, sono tutti separate, ognuno c'è la sua banda, va bene, me ne ho tenuta, è bellissima quella radio, nuova, perfetta, qua non me ne faccio niente, no. Tra le doppioni, lo sai, no, non lo penso. Se ci avevo Marco, 240, 2430, di cui uno l'ha fatto a 20, 240, 2430 e 2440. Che sono fatto? Praticamente avevi un negozio di apparati HF. Vabbè, tutti belli sono, che più che meno. Io francamente preferisco questi analogici che quelli tutti digitali. Non so perché, piacevano molto gli apparati anni 80, sia per forma che per funzionamento, prestazioni, insomma. Magari sì, quelle digitali hanno filtri, controfiltri, DSP, tutta quella roba lì. Infatti, il radio che usiamo, sia io che Antonio, per fare attività materiale, sono certo difficile farlo un po', perché quando stai trasmettendo in banda laterale, devi cercare di capire il corrispondente, altrimenti la prendi si accuccia, soprattutto quando i segnali sono bassi, è tutto un problema, capito? È tutto un problema. No, non ci stava più niente, ho detto bene una sopra l'altra, adesso se ti ho detto quando vuoi venire a trovarmi non c'è problema, ti faccio vedere come mi sono organizzato, è uno spettacolo perché le radio sono tutte separate, non sono una sopra l'altra, ci sono i suoi posti, le sue cose, e va bene così, prima era una sopra l'altra, qualcuno addirittura è anche dentro l'armadio, è come il 757, io ho anche il 757 GX2, che è sempre spento, non lo uso mai, perché il 27 uso questo, che è più silenzioso, e è una HF che è lì, fermo da una parte, non me ne l'ho tenuta, il primo giorno che mi salta, lo prendo, lo imballo e ce lo spedisco a qualcuno e mi prendo qualche altra cosa. È inutile avere tante radio quando poi non le usi, capito? Vabbè, anche tu hai ragione, giustamente, meglio una linea completa da usare tutti i giorni che mille radio da usare alternativamente. E avanti Brecche. Yeah, dove sì? Adesso già ti sento. Vedi se senti Antonio Grobbe, Antonio lo senti a Daniele uscendo da Sorso. Sì, già lo sto sentendo. Daniele, guarda con 10 watt se ti arrivo. Arrivi, sei un po' bassino, ma non hai niente sotto. E K, qualcosina gli devi mettere. Se vuoi te lo procuro, uno piccolino. Santiago 1 sta arrivando. Stazionale, te le sei controllate, perché stai arrivando troppo basso, per la massa che hai con quella macchina. Kappa, allora stai attento per gli coci finali, Ma cosa c'hai sotto? Che apparato hai? Kappa Roger, ho capito. E vabbè, no, già adesso non ce l'ho presente l'apparato, ma l'antenna invece cosa c'hai? La magnetica. La 1000 che cosa? La turbo. Per 10.000 non c'è qualche problema, perché non, guarda, pompa molto di più. E io mi ricordo avevo la 750, ce l'ho ancora nella macchina, o meglio, qualche idiota se ne è portato via lo stereo con la bobina, che se l'ha tagliata a culo, perché poi era settata per la mia macchina, l'avevo tagliata, figurati cosa sono invasi. Fatto sta che non stai scende troppo basso, compà. Una patronatina di rosso gliela devi dare, eh. Ti arrivi quanto? Passo, è a livello di QRM, io ho il QRM qua. Fai acqua, quant'è? Ah, sì. Daniele Accio sta salendo di segnale anche. Aspetta, un attimo nel bianco, voglio sentire se qua, quanto ce l'ho. Non ce l'ho a tre adesso, guardato, ma sai che cos'è, là, che qua ci sono, in questa casa qua, tutte quelle luci che vedevi che hanno, che si accendono piano, hanno tutte quante il trasformatorino, cosa, come si chiama? Trasformatorino, switching, e quindi creano delle radiofrequenze che mi disturbano la radio. Ho capito, no, io ce l'ho a due, uno e mezzo, due radio. Ma è la regolazione di radio. Non ce n'è niente, come piove, pulisce tutto, e va benissimo alla grande. La città che si è sceso troppo di volte. Va bene, Daniele, vieni avanti se stai aumentando il segnale, vediamo un po'. Io, vabbè, stai già salendo, 7 sì adesso. Conferma 7. Vedi, abbiamo tutti la stessa temperatura. E tu Marco, che sei più aperto rispetto a noi? Non tanto, allora sta variando, in quel passaggio variava da 5 a 7. Dai Daniele. Guarda adesso, 1, 2, 3, ora, ora. Datemi un riferimento, come vi arriva a voi? A me mi arriva tra il 5 e il 7, il mezzo, guarda. Kappa, da 5 a 7 oscillante, da 5 a 7, quindi una media di 6. Perfetto. Viene avanti di nuovo. Picchi di nuovo, 9 e 10. Ma adesso si sta avvicinando, adesso è Santiago 8. Prova Daniele. E fai da 7, 7, 8, 9. Guarda, QRM, avanti da silenzioso questo coso, non so se mi devo più fare. Daniele, non c'è né QRM. Ha detto Claudio che QRM non ce n'è. Ti volevo dire, quell'apparato è che aveva l'altoparlante un po' rovinato. Anche rovinato, poi non altri volumi, il volume, che poi c'è anche il processore per aumentare l'ascolto, diciamo, allora inizia a distorcere parecchio, capito? Ma stasera mi ascoltavi male, mi ascoltavi troppo cupo, vedi un po' se adesso ha migliorato, vedi un po'? Sì, adesso sì, aspetta anche quell'aggettino lì e che ascolto meglio. Kappa, tu stai usando l'Intec 490, hai detto, è quello di cui mi aveva parlato Claudio. Ti ricordi, Cla, che mi avevi detto che la modulazione era un po' così? Sì, non glielo sa, Daniele, era mio quello. Cioè, quello che gli aveva dato Franco era quello mio. Io avevo comprato il nuovo, quanto la scatola l'avevo dato a Franco, e non mi piaceva la modulazione. Non lo volevo mettere nella macchina allora. C'è anche un carriello. Pronto, una domanda, ma non è che c'hai l'IP inserito tu non l'850? È troppo alto, gliel'hai dato il segnale. Non c'hai la lucetta verde accesa? No, negativo, anzi l'IP dovrebbe abbassarmi un pochettino, cioè adesso è sbloccato, quindi è in off. Cazzo, una geniale del radio, minchia. Digitale è così però, sale subito maledetto, analogico piuttosto. Allora, vieni avanti di nuovo, ti dico subito quanto ce l'ha, vai. Qua adesso le fa l'azienda. Allora, inizio passaggio ha fatto 9, 9, 5 e per poi scendere leggermente a 8. Guarda adesso, ora sono libero. Sì, 9, 10. Qua manco con le palle, qua sì, tra il 9 e l'8, tra l'8 e il 9, da te Marco, o Kundo, niente. Guarda un po', 1, 2, 3, 4 e 5, ora la mano la ci folla, come? Adesso arriva una media di 9. Come me, una media di 9, 3,8 e 9, no, Marco? Ma che qua è 9? Sì, praticamente tra 8 e 9, confermo. Sì, sì, allora è preciso anche questo. Digitale, ma adesso che cazzo partono qui, quei cosi si illuminano subito, si illuminano in fretta, maledetto, e per quello è anche più insensibile, tu mi capito, perché digitale, questi analogici sono più tosti. Serie 140, 430, 440, 70, dell'850 850, sì, 850 e 450 della Kenwood, che è la serie nuova del 440 digitale, c'è il DSP esterno, si compra e si inserisce, è una scatola nera uguale alla radio, è un po' più piccola della radio e si mette sopra o sotto, si applica sotto e diventa e tira il DSP, capito? Perché è nata per applicarlo come opzionale DSP, mentre tutti gli altri digitali che sono usciti dopo DSP ci hanno già inserito come 7004 la ICOM, quello che c'ho io e come tante altre radio, mentre il 450 era opzionale, quindi dovevi comprare l'apparato DSP. Se aspettate un attimo vado al volo a dare un'occhiatina, è probabile che sia il 450, è probabile, mi è venuto in mente adesso, va, adesso guardo. A proposito di desapparecido, non ho più visto Volpe, come si chiama? Vittorio, però adesso non mi ricordo, Vittorio si chiamava, Vittorio Volpe. Ma sentito radio? Non l'ho più sentito. Ma io da tanto che non lo vedo, non lo sento, ogni tanto magari entrava a fare due chiacchiere. Adesso vabbè io poi sono assentista, oggi mi sono un po' dedicato alla 3x9, ma non stavo più, quindi magari sarà entrato, non l'ho sentito. Oltre al parente è anche omonimo dell'altro Vittorio? Assolutamente no, non sono niente. Però è omonimo, stesso nome e stesso cognome. Stesso cognome, stesso nome, ma non sono niente. Lui sarà impegnato perché so che faceva la piano bar insieme alla figlia, quindi il padre mi ha detto che era molto bravo. Bravissimo, bravissimo. Ma già da tantissimo tempo, già da quando stava in negozio, si dedicava a queste cose extra, capito? Extra. Ed era molto bravo, era molto bravo. Io l'ho visto anche in un circolo lì a Sassari, alla Reggio d'Oro, suonando, è molto bravo. Ci becchiamo. No, adesso lì t'opposto, adesso sono in largo Budapest. Ehi, hai già capito, lì in piazzetta, dai, al largo. Poi c'è l'Artema. Ehi, già ho capito. Andava, ah, è 2 minuti sono da te, Anzu. Dai, invece io vi saluto, vi abbraccio calorosamente tutti, grazie delle due chiacchiere, così mi te la tanto lo smitto stasera, mi volevo fare, però non c'è mai nessuno. Era un riferimento, ho preso riferimento tuo, Antonio, quello di Marco, quello di Gianni, e così è apposta anche questa. Dai, vi saluto tutti che sono in 11:20, domani nella vostra del 5. Ciao Antonio, Daniele, Luca, Marco, Gianni, Dromi e tutti quelli che sono all'ascolto. Adesso vi do più alle compresi. Claudio Sparviero, QRT, SK. A domani signori, un abbraccio a tutti. Ciao Claudio, 144-73 e ci ascoltiamo domani se coincide, dai. Buonanotte. Avanti. Ciao Cla, buon QRT, buon tutto e buona giornata per domani, dai. Eccomi. Ciao, grazie a tutti, ciao Marco, a domani, salutatemi a Lucariello. Ciao Cla, buonanotte. Ciao Lucariello. Ciao Claudio, buonanotte, comunque ho dato un'occhiata. Dovrebbe venderli la Wimo.de, però pare siano fesserie, cioè agiscono solo sulla BF, sulla bassa frequenza, e quindi no, le considerano giocattoli. L'ho visto su radioamatori.it, è come mettere un noise filter dall'altoparlante esterno praticamente, dai. Ok, buonanotte Claudio, sentiamo, avanti Luca, no Luca, Antonio. Se aspetti un attimino ci dai un controllo, perché se sta venendo Luca sistemiamo un attimino l'antenna, perché è troppo basso come sta arrivando, secondo me c'ha problemi troppo di stazionare, capito? Ti diamo una rosmetrata e ci devi dare un controllo. Tanto di tassella e sono qua all'Agi. 9.5. Ma quando arrivo da te, poi dopo? Allora Luca, tu arrivi 9.30 spaccato. Quanti watt? Sì, 9.30, la con lo scala qua. Io sto usando 10 watt adesso. Tu hai detto che dovrebbe essere circa 10 watt, no? Io 10 watt circa. Allora siamo lì. 10 watt anch'io, sì. Ok. 10 watt tondi, poi bisogna vedere dall'antenna quanti ne escono con 50 metri di cavo. No, arrivi bene, bella radio anche. Eia, e sicuramente era lo stesso che avevi tu. È il microfono uguale, no? MC60. Si sente, l'ho avuto pure io con il microfono. Peccato averlo dovuto dare. La mia è una bella radio, pompava la grande. Eia, vediamo un po' che prove dobbiamo fare, Antonio. Diamogli passo passo i controlli. Comunque secondo me potrebbe essere una normale antenna magnetica, però Daniele ricordati che se non l'hai fatto devi controllare assolutamente le stazionarie, perché non devi rischiare di bruciare l'apparato. Ma tu? Vai, stai dicendo tu, c'ha ragione Marco. Sì, da un po' di tempo era ferma questa antenna, capito? E quindi adesso l'ho rimessa in moto. Ma se fai passaggi corti non lo bruci mai, barattino? Beh, difficilmente, a meno che non abbia stazionale infinita, ma non credo. Non credo. Naturalmente l'antenna si ha le vittine di taratura, si regola dalle vittine, non tagliando. Certi sono allucinanti, Luca. C'era gente che si regolava l'antenna d'acciaio e se la parava tagliando a 10 cm per volta. Quando lo sanno che devi tagliare 2 mm alla volta, seppure c'è da tagliare, perché francamente molte antenne, tra quali la mia, hanno le due vittine, regoli lo stiro alla lunghezza giusta, poi stringi le vittine e lasci così. Infatti. Ma quante ne ho detto tu io, Daniele, no? No, Lu, quella... su questa manca la cosa, da, vabbè, per fare la base magnetica, però questa era già pronta per la 1000. Ho capito. Mi pare di aver notato che se voi avete un'antenna tarata, tarata bene col centrotetto, no? Se poi la mettete in base magnetica bisogna allungarla leggermente. capito, probabilmente con base magnetica c'è meno massa, richiede un allungamento dello stivo appena appena, pochi centimetri. Attenzione Antonio! Antonio mi sa che sta scendendo, buh. Cava, cava. Adesso come ti sta arrivando Marco? Allora, la portante muta è 8 e mezzo. Se parli arrivi a 9,5, quasi da 9 e qualcosa. Andava. E sono liscio, Sì, quello omologato lo stavano dando in offerta, nuovo, 100 euro. Però poi, vabbè, mi hanno detto di lasciar perdere, di prendere Midland, il problema è che la Midland adesso rifà tutti blu, con display blu, SMD, capito? Purtroppo baracchini omologati con componenti classici non ce ne sono più. Ci sono apparecchi con 200 canali che hanno componenti classici, tipo il Superstar 3009, l'Albrecht Ultra Force, e poi c'è un altro, il Magnum Omega Force, hanno i componenti classici e non SMD. Così, ma se giri qualcosa di vecchio già lo trovi in commercio, qualcosa di vecchio già si trova. Però Darie, usato non mi fido di prendere baracchini usati, non mi fido, perché bene o male poi qualche magagna ce l'hanno. Vabbè, bisogna rassegnarsi. Comunque, se non danno problemi, anche gli SMD vanno bene. E a me ha dato un problema un baracchino ed è quasi 6 mesi in assistenza. 6 mesi. Aspetta Marco, è arrivato Antonio qua. Ehi, fate, dai. Non te ne andare però, che ci dai i controlli. D'accordo. Ma sono anch'io qua per tuo, non per molto. Ehi, allora, aspetta un attimo. Ecco qua, 15 centimetri, sto parlando piano, sto parlando piano per non disturbare in casa. Luca, come va? Ancora bene? Sì, sì. Oh, Daniele, ma Luca ha portato, ma Antonio ha portato il rosmetro? Sicuramente sì. Siamo messi. Aspetta un attimo. Pure uno sono qua, è tranquilla. E allora non ti preoccupare, è semplicemente la resa dell'antenna. Ascolta, quanto è alta l'antenna? Aspetta, l'antenna è alta, boh, quanto sarà alta? In tutto è 1,75, 1,80 l'antenna in tutto. A voglia allora, a voglia di antenna, la mia è 1,60, rende come la tua, in poche parole. È che la gente è abituata a sentire gente con lineari, con 100 watt, con 300 watt, con 500, quindi tutti i baracchini normali sembreranno banali. Aspetta un attimo Marco. Ehi. Oh Luca, pensa che mi ero dimenticato di dare i voti a quei venditori, gli devo dare ancora i voti. Io non ho un problema, ci mancherebbe già. Vedremo dai. Cosa fare? Vedremo. Poi vabbè, non è che sei obbligato, dai, diciamo. Ci devo guidare, ragno, positivo. Tanto io l'ho presa nel sedere perché non l'ho pagata ancora. Ma tanto poi ce l'ho qui nel secondo. Stavolta anche in molte figure con te. Ma per carità. Ma poi l'ho convinto, perché ero più che convinto che i soldi erano sicuri. E poi anche loro hanno trovato un problema. Un attimino, sto sistemando delle cose qua, dai. Se no me l'ascolto un attimo. Ok, lascio il microfono. Va bene. Ehi, quando devi comprare ricambi, Luca, fateli dare sempre, prima. Nei C c'è il display rotto, dobbiamo ordinare il display. Capito? Sennò poi la gente è così. La gente prima prendi e poi non ne paga. Ok, vediamo qua Daniele come è messo. Daniele? Ciao, ciao Marco. Dimmi Marco. Dicevo, allora, tutto a posto. Avete controllato anche il 40, l'1, il 20 e il 40. Poi se vuoi andare sui canali alti, al limite controllate anche l'80. Adesso controlliamo Marco al 40. Però non vuoi Daniele? Sì, lui, un attimo si lavora. È da quello in giro. Sì, ormai ci sono abituato. Aspetta che passo un attimo al 40 a fare una prova. D'accordo. E domani anche io lavoro. Lavoro di mano, capito? Mi faccio le pippe. Sono lavorando Marco, no? E poi io sono fuori età. E non li vogliono più i 42enni, capito? Mi dicono che non ce n'è. Pazienza, vuol dire che mi butterò dal ponte. Quale mansioni hai, ma quale mansioni fai? Io sono generico, operaio generico, la qualifica, diciamo, della come chimica si chiama, come si chiamava, l'ufficio di collocamento. Non ho qualifiche, capito? Potrei fare qualsiasi cosa, ma non me ne danno. Sto aspettando che bussino alla porta a dirmi: signor Pistilda, abbiamo il suo posto di lavoro. Come mai chiamato avete il collocamento? Come Luca? Come chiamato avete il collocamento? No, chiamato no, ero io che dovevo andare a cercare roba. Ma poi si è rotto le balle, Luca. Tanto mi. Adesso c'è Santiago del 4M, che è un disturbo elettrico che c'è in zona. Ogni tanto arriva, verso quest'ora si accende, come se fosse un apparecchio elettrico, un climatizzatore, cosa ne so. Perché il 4M in realtà non ce n'è, c'è solo questo disturbo che poi scompare, di notte tardi scompare. Bella macchina comunque, bella macchina veramente. Speriamo che mi duri nel tempo, cercherò di trattarla benissimo, non bene, benissimo. Poi appena mi stufo, la do completa. Ma spero di non stufarmene, perché è il miglior baracchino, tra virgolette, che mi sia capitato tra le mani. Ho dovuto dare il culo mi per averlo, mi sono svenato proprio, mi sono indebitato. Allora, l'unico problema è che, come si dice, che non funziona lo squelching della M. Ehi, Luca, quello l'ho notato, ci sono rimasto un po' così, ma non fa niente, casomai metto l'attenuatore, tanto per i qualsiasi locali si mette l'attenuatore, abbassa di 4 Santiago, quindi se uno arriva a Santiago 5 lo porta a 1, ma è capibilissimo lo stesso. Ho imparato anche a non metterlo, capito, lo accetto anche così, tanto correme non è che ne prenda tanto. Qua arriva di solito 1 QRM, vabbè, quando c'è propagazione arriva anche 2-3, ma non è un granché. Invece il Pomponio col 680, come questo però è 50 MHz, col 680 lamentava anche il QRM Santiago 9, probabilmente perché lui, come saprai, ha quel traliccio elettrico a un passo da casa sua, hai presente? Pomponio, vicino a casa sua ha un grosso traliccio elettrico e probabilmente il QRM a 9 ce l'ha per quello. Marco! Cappa, vieni avanti. Guarda adesso, com'è? Vieni la portante muta. Guarda un po', 1, 2, 3, 4 e 5. Allora, il Santiago è 8 e un quarto, tra 8 e 8 e mezzo la portante muta, quando moduli sale. Aspetta un attimo e faccio un altro passaggio. Java Gava, Java è ancora Gava. Voilà, voilà. Chissà perché dà anche 10 watt in più. Cioè, 15 watt, l'avevo messo a 10 e ne dà 15. Perché ha scaldato ancora di più, vabbè, tanto già andrà bene. Marco! Vieni avanti! Guarda, 1, 2, 3, 4 e 5. È uguale, praticamente uguale, hai guadagnato solo un dB, uno o due dB, non so chi ha, che è dB, decibel. Guarda, 1, 2, 3, 4 e 5. Sempre uguale. Sì, io sono curioso di provare, un giorno vado a Piazza dei Segni con la mia e metto mamma qui, se vuole, e faccio la prova. Sono curioso anch'io di sapere quanto arrivo da Piazza dei Segni a qua. Dimmi dove sei a Piazza dei Segni, dimmi se sei al centro perfetto, al centro da tutti i lati, oppure se sei in altre zone. Daniele? Marco? K Daniele, vieni avanti. Guarda, adesso 1, 2, 3, 4 e 5. Uguale Daniele, sempre uguale, non cambia. Cosa stai toccando? No, niente, qua impostazioni dall'apparato, dai. Sto facendo alcune prove. È sempre uguale qua. Ascolta, cosa sei? Santiago 4 tu? Ma scusa, Santiago, quanto hai? 4 watt? Cosa? Quanti watt hai? 4? Marco! Ehi, ti ho chiesto quanti watt stai usando. 4 watt, Non cambiano, anche se tocchi compressore, roba del genere, è uguale l'uscita, non cambia. Vabbè, ripeto, in che zona sei Piazza dei Segni? Sei perfettamente al centro oppure da qualche altra parte? E non risponde. Oh, mica sei Radio Zero, mi sei uscito appena. Guarda adesso, sento sta toccando tutto, sposta tutto. Ehi, ho detto, da che parte sei Piazza dei Segni? No, non sei Piazza dei Segni, siamo a Largo Budapest. Ah, sei ancora lì, ho capito, forse a Piazza dei Segni arrivi anche meglio. Va bene, tiragli le orecchie Antonio, fallo parlare, vediamo come esce. Non fare finta, tanto si sente benissimo che stai simulando. Oh, dovrebbe andare bene, guarda un attimo. Pensavo avesse stazionario in antenna, invece è tutto a posto. Strano, sta uscendo comunque basso e rispetto alla potenza che può erogare non mi sta piacendo l'antenna. Evidentemente non fa grande piano di massa. E lo sai che chi non fa piano di massa è un gran figliolo di vacca. Ascolta, la base magnetica che diametro ha? Quella grande, però boh, è strano. Evidentemente c'ha troppa, come si dice, isolamento, non so cosa dire, perché l'antenna è un bel, cioè sarebbe quasi una 5 ottavi. No, ma dico, da quanti centimetri? 12, 14 o 16? Sono 1000, un metro. La base magnetica, quanti centimetri? 12, 14 o 16? Credo sia 16. Vabbè, quella è la più grande. Vabbè, vuol dire che deve uscire così. Io lo sentivo comunque, anche quando andava a sorso lo sentivo. Basso ma lo sentivo. Conta che ci sono molti ostacoli, a seconda di dove sei, sei in mezzo agli ostacoli, non sei a portata ottica. Aspetta, dai, saluto Antonio e poi riprendo tra 2 minuti, dai. Va bene. Luca, a te come ti arrivava? Stavo guardando, non c'è un telefonino aperto in mano. Ah, vabbè. Va bene. Arriva Rutino. Non arriva. Maialone, che sì. E siamo in economia. Marco. Papà. Siamo in economia. Perché stai parlando come Antonio? No, Cancione, lo conosci, sono Cancione. Negativo. Allora. È Romano Furi. Morte il signore. No, ma chi è questa gente? Sono amici di Claudia. Di Claudia? E Claudia chi è? Claudia è una detta. Le borgate di. dalla Germania. Che sono senza mangiare, non ho cenato ancora, sto morendo di inedia. Mangiato, ma? No, io mangio alle 11, ma oggi, già che siamo di prove, sto ritardando un po'. Non ne ho manco voglia, la verità. Mangerò una fettina impanata e basta, e un po' di frutta. Faccio la cancione, sono le tre mie. Mi fai pensare a Robertino Belligabelli, quando arrivava. Beh, a voi la sento anche un po' la pura bada voi. Lui parlava di lire, giusto, no? Di euro. Euro non c'era all'epoca. No, ancora no. Cazzo, andando a Zabadu. Andando a Zabadu. Era pure Sandro che era monette, mi sa. Lui ti metteva una cancione. Una cancione. Poi quanti personaggi strani che c'erano a Sassari, in 27, ni. Ciu, Gambero, Sandokan, Radio Galera. Radio Galera? Sì, era un tipo, non si chiamava Radio Galera, aveva un altro nome. Il Polo aveva chiamato Radio Galera perché questo aveva fatto qualcosa, no? Aveva picchiato non so chi, era finito in galera. Allora lo chiamava Radio Galera. E quello, guarda, se ti trovo, ti ammazzo, te lo giuro, sulla tomba di mio figlio. Beh, c'è di strano altro che. Daniele? Ci sei? Siete andati a prendere un caffè? Caffa Daniele, siete andati a prendere un caffè? No, caffè veloce, no, sto tornando al buio così, è più del meno, adesso mi sto tornando. Poi di notte è tutto chiuso, sai che rimane aperto di notte? Il bar Daniele è in piazza Tolami, vedo luogo. Per carità, guarda, per carità. Bar Daniele, bel luogo, al limite di notte ci puoi comprare solo le sigarette, ma entri e esci. Arriva. Oh, iaia. Va bene. No, ci bisogna che metto il 48 io in macchina, che ce l'ho a casa. Che 48 è normale oppure di quelli belli tecci? No, normale, vecchietto, ma normale. Chi è? Ho bevuto la Coca-Cola, mi stanno uscendo gli occhi. Cacchio. Luca, sei scandalizzato. Luca, già lo so che stai ascoltando. Mi facciamo il concerto. Ho avuto un bicchiere di Geppo. Di Geppo? E cosa hai su Geppo? Di una scatola. Ah, tipo Ceppo Rosso. Ceppo Rosso, sì. Tanto a quest'ora non c'è nessuno all'ascolto, possiamo fare anche maleducati, come i veri vecchi tempi. Ma non conviene, già ascoltano sempre. Pensa che l'altro giorno ho fatto uno scorreggio in diretta al microfono. Allora, io ho ruttato patusi, Tipo grandi modulatori. Se ti vuoi divertire, vai su YouTube e cerchi il video Antico Rottificio, mi pare sia Antico Rottificio 45, e praticamente hanno estratto tutti i rotti dei grandi modulatori e li hanno messi in un unico video. È allucinante. Daniele, dove sei arrivato? Io sono arrivato adesso sotto casa, infatti approfitto e vi saluto a tutti quanti. Cappa, sei Santiago 9, sei abbastanza costante qua, Secondo me va bene l'antenna, poi bisognerebbe paragonarla con un'altra antenna, per dire, no? Ok, ci sentiamo. Va bene ragazzi, dai, io ne approfitto, vi saluto a tutti, vi cordializzo e una buonanotte e alle prossime. D'accordo, ci sentiamo, buonanotte. Ciao Daniello, anch'io adesso mi chiudo, dai, Marco lì. ci aggiorniamo domani, dai. Comunque quella radio c'è a posto, dai, di lusso, ma la radio, come è forte. A domani, ciao a tutti, ciao Grodde! Ciao, ciao Marco, ci ascoltiamo, dai, ciao ciao! Buona giornata per domani. Ciao Antonio, se sei l'ascolto, io vado finalmente a mangiare, non che ne abbia voglia, ma mi tocca. Ok, buonanotte a tutti, buonanotte anche agli ascoltoni. Ciao Marco, buonanotte, domani, ciao ciao.